Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, vi segnalo questa sera una suggestiva guida alla lettura di alcuni capolavori, per la precisione di 10 capolavori. Il libro è quello di Alessandro Zaccuri, che ha scritto Come non letto, 10 classici più uno che possono ancora cambiare il mondo. È pubblicato da Ponte alle Grazie, 196 pagine, 14 euro. L'autore, come vi ho detto, sceglie 10 capolavori della letteratura universale, ai quali associa una parola chiave, ed ecco le coppie scelte dall'autore: Don Chisciotte e il sogno, Robinson Crusoe e il mondo, Oliver Twist e la città, I promessi sposi e l'Italia, Il conte di Montecristo, La vendetta, Moby Dick, Il mistero, I miserabili, La giustizia, Guerra e pace, La storia, L'idiota, La santità, Dracula, Il male. Questo libro nasce da una serie di incontri presso una parrocchia periferica di Milano, dove la Caritas aveva organizzato una serie di incontri culturali per raccogliere qualche risorsa economica. Zaccuri accetta di partecipare e di parlare appunto di letteratura, sceglie i 10 libri come se fossero ancora da leggere e sceglie il titolo del ciclo ispirandosi all'abitudine che abbiamo credo un po' tutti di contrassegnare i messaggi di posta elettronica che si vorrebbero leggere con calma ma che poi non si apriranno più, esattamente come accade spesso con i grandi classici, scrive infatti l'autore. Con i grandi romanzi non va diversamente, non è mai il momento buono, manca il tempo, l'interesse, l'occasione, l'estate prossima oppure quella dopo. E poi siamo sinceri, certi libroni di 500, 1000, 1500 pagine incutono paura. Se anche mi mettessi, riuscirei mai ad arrivare in fondo? Non solo. Questi libri, aggiunge Zaccuri, sono libri talmente famosi da alimentare il pregiudizio di essere in un modo o nell'altro già conosciuti. E da qui quindi nasce questa iniziativa, accompagnata appunto a un gesto di solidarietà da parte degli ascoltatori. Infatti anche i diritti derivanti da questo libro andranno a una onlus milanese, Nocetum. Ma perché 10 più 1? Dell'undicesimo libro il titolo non c'è, nonostante ampi riferimenti alla vita, istruzioni per l'uso di Georges Perec, associato alla parola destino, di cui questo libro è una delle migliori rappresentazioni, scrive Zaccuri. Ma facciamoci spiegare dall'autore la ragione delle sue scelte. Buonasera ad Alessandro Zaccuri. Buonasera a voi. Alessandro Zaccuri, il suo libro inizia parlando del rapporto tra autore e lettore. Lei scrive che spesso il primo, cioè l'autore, si dimentica del secondo, del lettore. C'è questa distrazione, ma da questa distrazione, lei spiega, nasce il capolavoro. Perché? Perché io prendo un esempio che è abbastanza famoso, è un episodio dell'Isola del Tesoro di Stevenson in cui il protagonista, il piccolo Jim, si nasconde in un barile di mele e lì ascolta il dialogo tra Long John Silver e gli altri pirati, scopre che Long John Silver è un pirata, eccetera. Ecco, in quel momento è come se Stevenson fosse così interessato anche lui a quello che Long John Silver sta dicendo, questo cuoco che si rivela un pirata, questo personaggio che si rivela una cosa diversa rispetto a quello che credevamo, che non sta più dalla parte di quello che parla, ma sta come dalla parte di quello che ascolta. È come se Stevenson fosse con il suo personaggio, con Jim, e alla fine insieme con noi, con i lettori, dentro il famoso barile delle mele. E sta spiando, sta ascoltando, sta imparando qualcosa. Ecco, io credo che in questi momenti in cui anche i grandi autori, i grandi narratori, Stevenson è stato un grandissimo narratore, si distraggono, no? E ci fanno un po' di posto a noi lettori nella storia che stanno facendo. Si mettono in ascolto dei personaggi esattamente come noi lettori cerchiamo di fare. Credo che questi siano, come dire, degli spiragli che ci permettono di guardare con più intensità nel laboratorio dello scrittore e nello stesso tempo di capire più in profondità i meccanismi del racconto. Poi lei parla della lettura e dà della lettura una definizione, o meglio dice come bisogna accostarsi alla lettura. È un approccio nel quale mi sono ritrovato, purché non passi, lei scrive, la convinzione che leggere è una forma di intrattenimento più sofisticata delle altre, un divertimento appena più pensoso che accomuna un gruppo dignitosamente ristretto di persone dotate di buon gusto. Ecco, questa concezione snob della lettura è quanto di più pernicioso ci possa essere. Quali sono i rischi che passi questa lettura della lettura? Ma di accontentarsi di leggere basta, insomma, cioè di accontentarsi dell'idea che appunto proprio perché, specie nel nostro paese, è così poco comune, no, incontrare dei lettori, allora i lettori fanno il loro piccolo circolo di persone che se li intendono tra di loro, che hanno buon gusto, che preferiscono queste ad altre forme appunto di svago e di intrattenimento. Io non dico che ci sia un modo giusto e un modo sbagliato di leggere, perché comunque il verbo dovere rispetto alla lettura forse lo ha tolto tanti anni fa Daniel Pennac in quel libro molto bello Come un romanzo, che è appunto la storia della sua esperienza di lettore e di insegnante. Non c'è un modo giusto, un modo sbagliato, forse tutti noi per un momento della nostra vita siamo stati dei lettori un po' snob, eccetera, però io credo che il punto ultimo della lettura sia, diciamo in maniera semplice, quello di costruire una comunità, no? Cioè quello di fare in modo che la realtà che noi sperimentiamo attraverso la lettura abbia qualcosa a che vedere con la realtà che noi sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Non vuol dire che automaticamente leggere rende persone migliori, io non credo che ci siano automatismi, credo che però ci siano alcuni libri, credo che ci siano alcune opere, alcune occasioni nella vita di ciascuno in cui obiettivamente aver letto o non aver letto quel libro ci ha dato uno sguardo diverso sulla realtà, e quando tu hai uno sguardo diverso sulla realtà che vivi, in un modo o nell'altro poi hai anche un rapporto nuovo, un rapporto sorprendente a volte con la realtà stessa. Non c'è un modo giusto o uno sbagliato per leggere, però lei scrive che per leggere servono matita, temperino e gomma. Senta, io uso solo la matita, quindi sono un cattivo lettore. Non mi faccia fare cattiva figura con gli ascoltatori. Ma la sua matita prima o poi si consumerà, quindi il temperino lo usa senz'altro a un certo punto, e la gomma è soltanto, come dire, sono gli strumenti che uso io, e non dico che siano strumenti universali. A me servono questi. La matita cosa vuol dire? Prendere un piccolo appunto, a volte basta soltanto proprio un trattino atto per ricordarsi che quella frase, quella pagina è importante. Farlo spesso, quindi serve il temperino per tenerla sempre pronta questa matita, e la gomma perché poi capita anche, insomma, di dover correggere un parere, di dover aggiungere, di dover magari di pentirsi, insomma, ecco. E quindi avere la gomma è un po' il segno dell'umiltà, ecco. Cioè nessun libro è mai letto per sempre. Io c'è un piccolo episodio che non avevo messo nel libro perché non volevo parlare tanto di me, però io sono una di quelle persone, ho scoperto che ce ne sono diversi in giro, che hanno letto solo il primo volume dell'Idiota di Dostoevskij da ragazzi, e hanno scoperto dopo che c'era un secondo volume. Ecco, allora da questa esperienza, che è anche abbastanza umiliante, insomma, un po' buffa e imbarazzante nello stesso momento, uno se non altro ha l'intuizione che ogni libro è sempre un libro letto un po' a metà, quindi ci si può tornare sopra in fasi diverse della vita, si scoprono cose nuove di quel libro. Un esempio che io faccio in Come non letto è quello dei Promessi sposi, che è un libro che molti di noi hanno, quasi tutti anzi, hanno affrontato integralmente o in parte molto giovani, tra i 15 e i 16 anni, e invece come dire, è un libro che forse rilascia più lentamente il suo fascino e la sua sapienza, che riletto a 30, riletto a 40, 50 anni diventa davvero, davvero un libro nuovo. Quindi lì la matita può servire, no? Magari uno nella sua coppia di scuola ha detto che barba questo innominato, e 15 anni dopo si accorge che l'innominato invece è un bellissimo personaggio e può cancellare quell'appunto. Come dicevo prima, ogni titolo dei suoi 10 è associato a una parola chiave, e per I Promessi sposi appunto l'associazione solenne è associata alla parola Italia. Come mai questa scelta? Beh, insomma, perché mi sembra che anzitutto è il romanzo italiano per eccellenza, e poi ha una caratteristica che passa inosservata anche forse attraverso le briglie di una lettura un pochino appunto normativa, un po' prescrittiva, che è quella che per forza si deve fare a scuola. Però la cosa buffa dei Promessi sposi è che rispetto agli altri grandi romanzi di cui parlo, ma perfino Il Conte di Montecristo, Oliver Twist, non parliamo, insomma, è il libro in cui veramente la storia d'amore è centrale. Ora non dico cuore amore come simbolo dell'Italia, però in qualche maniera tutto questo discorso di un amore, l'amore tra Renzo e Lucia, che si deve compiere in un certo modo, che si deve compiere attraverso il matrimonio. Non si accontentano di scappare per conto loro, ma devono arrivare, come dire, a fondare questa famiglia, devono arrivare ad essere riconosciuti dalla comunità nella quale appartengono. Mi sembra che questa volontà, ecco, di mettere insieme la giustizia, perché si ribellano a un'ingiustizia Renzo e Lucia, la loro storia d'amore e il fatto di appartenere a una comunità, a una civitas potremmo dire, è proprio qualcosa che appartiene tanto alla storia italiana, insomma. Ecco, quindi ho provato a fare questa identificazione con l'Italia, non soltanto appunto perché il romanzo italiano per antonomasia, perché fonda la lingua italiana moderna con o senza le sciocature in Arno, eccetera, eccetera, ma perché secondo me c'è questa idea che l'amore, la bellezza, insomma, non siano un fatto privato, ma siano qualcosa che si mostra, che influisce appunto sulla vita degli altri. Io credo che una delle grandi invenzioni italiane, non sono io a dirlo, sia la piazza, cioè questo luogo in cui appunto la bellezza degli edifici, come dire, si mette in mostra e mettendosi in mostra racconta qualcosa della città, e mi sembrava insomma che la piazza descritta dai Promessi Sposi fosse, come dire, una buona sintesi della tradizione italiana. Invece in altri grandi romanzi dell'Ottocento, I Miserabili, Oliver Twist, Il Conte di Montecristo, il protagonista è la città, lei scrive. Sì, la protagonista della città, diciamo che succede questo nell'Ottocento. Io ho preso 10 romanzi e di fatto 8, la maggioranza, sono romanzi dell'Ottocento, perché l'Ottocento, XIX secolo, è il momento in cui lo strumento narrativo del romanzo davvero per tanti motivi giunge a compimento. Uno dei motivi è che nasce la città moderna, e la città moderna è molto diciamo comoda per un romanziere, perché il luogo in cui tutti i personaggi possono convergere, come accade appunto a un certo punto nel Conte di Montecristo, che è un romanzo disseminato di avventure, però tutti a Parigi si ritrovano, ed è un punto di attrazione, come succede appunto in Oliver Twist, ed è, questo in Oliver Twist è molto evidente, ed è un luogo ambiguo, è un luogo che deve essere decifrato, perché c'è la città borghese, alla quale in realtà poi scopriremo che Oliver Twist appartiene, ma c'è la città di Fagini, quindi la città dei ladri, la città del sottobosco e via dicendo. Addirittura nei Miserabili Victor Hugo porta la storia dentro la città, con l'insurrezione di Parigi, quindi voglio dire, è veramente il posto in cui possono accadere tante cose e alcune non possono accadere, quindi per un romanziere è abbastanza utile, ecco, diciamo, servirsi della città e far convergere lì tutti i suoi personaggi. Il libro che secondo me però la città la racconta meglio, come accennavo prima, è proprio Oliver Twist, perché dà quest'idea di una città nella quale ci si può perdere, una città che va interpretata, una città che non si conosce mai fino in fondo. Grazie ad Alessandro Zaccuri, autore di Come non letto. Buona serata. Buona serata a voi. Come avete sentito, uno dei 10 libri scelti da Zaccuri, uno dei 10 classici, è L'idiota di Dostoevskij, associato alla santità. E questo libro ha ispirato un filosofo, scrittore, regista, curatore di classici, in particolare di Tolstoi e di Dostoevskij, Igor Sibaldi, che pubblica Il coraggio di essere idiota, la felicità secondo Dostoevskij, pubblicato da Mondadori, 192 pagine, 16,90 €. Dostoevskij, ci spiega l'autore, ci servirà come esperto di tue faccende anche molto personali. Non facciamoci impensierire per i 2 secoli che ci separano dall'autore, da Dostoevskij. Sarà interessante notare, aggiunge l'autore, come certe cose importanti siano cambiate ben poco da allora. Per esempio, la sua epoca gli andava stretta, come a te la tua, e il futuro a cui aspirava è futuro ancora oggi, in attesa che qualcuno, magari tu, lo realizzi. Così Sibaldi. E qui l'autore ci invita appunto a questa identificazione, perché spiega Dostoevskij vuole che ti innamori di Mishkin, il protagonista appunto del romanzo L'idiota, così come se n'era innamorato lui. E la guida che ci presenta in questo libro farà di tutto per riuscire in questo intento. A questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ci eravamo lasciati con Dostoevskij, riprendiamo da qui. Agli appassionati di questo grande autore russo segnalo un'ampia scelta dell'epistolario curato da un grande studioso della letteratura russa, Ettore Logatto, e riproposto da Aragno in due volumi per complessive 930 pagine, 60 euro. Dostoevskij scriveva le sue lettere con intento strettamente privato, ma nessuna di esse trascura di trasmettere entusiasmo e passione da parte di questo grande artista, così che questa raccolta diventa veramente uno spaccato della sua vita e della sua drammatica esperienza, anche nei rapporti con gli editori. Per esempio, qua si parla, o meglio ne parla Dostoevskij, proprio delle difficoltà che ebbe a pubblicare L'Idiota per il timore che l'editore volesse imbrogliarlo. Un grande scrittore del Novecento, anzi una famiglia di grandi e grandissimi scrittori del Novecento, è quella dei Mann. Non c'è infatti soltanto Thomas Mann, che vinse il premio Nobel nel 1929, fu scrittore il figlio Klaus, il figlio Golo, fu scrittore il fratello Henrik, fu artista la figlia Erika, insomma una famiglia che ha segnato la cultura europea del Novecento, a partire appunto dal padre. Mann, quindi, Thomas Mann è l'esponente di una famiglia famosa, la cui storia è raccontata nel libro che si intitola appunto I Mann, storia di una famiglia di Tilman Lahn, tradotto da Elisa Leonzio per EDT, 490 pagine, 26 euro. Una famiglia, come dicevo, quindi nota e ingombrante, sulla quale si accesero in particolare i riflettori dopo che Thomas vinse il premio Nobel e soprattutto dopo che assunse il ruolo di un oppositore del nazismo, un ruolo che lo porterà poi all'esilio americano. Una famiglia notissima, definita da un critico dell'epoca come la famiglia più importante, originale e interessante della Germania del Novecento. Si comincia dal 1922 per arrivare all'inizio del nuovo millennio, seguendo appunto le vicende anche dei figli, e naturalmente al centro del figlio c'è Thomas e il rapporto spesso molto complesso proprio con i suoi figli. Uno dei capolavori di Mann è il romanzo I Buddenbrook, come voi ricorderete, definito un autentico distillato di vita borghese nel libro di cui adesso vi parlo, quello di Franco Moretti, che è un docente all'Università di Stanford, che si intitola Il Borghese tra storia e letteratura. È pubblicato da Einaudi, 186 pagine, 24 euro. In questo libro lo stesso Mann gioca un ruolo importante, ma non è naturalmente l'unico scrittore e artista considerato. Il tipo ideale del borghese, nota l'autore, nonostante il successo planetario del capitalismo, sembra caduto in ombra, e infatti, scrive Moretti, la sua incarnazione, quella del borghese, sembra svanita nel nulla. Le idee e gli ideali borghesi, ma che cosa sono? Per questo il libro vuole soprattutto guardare al borghese, spiega l'autore, alla sua cultura come elementi di una struttura di potere con la quale tuttavia non coincidono del tutto. Il borghese viene qui esaminato soprattutto nell'area che incrocia storia e letteratura, ma anche immagini. Si parte da Defoe per poi incontrare tanti personaggi, appunto anche attraverso le immagini, perché il borghese, spiega Moretti, si trova nelle storie e negli stili, soprattutto negli stili, perché la borghesia ha sempre sentito e patito l'incapacità di creare, così come era capace l'aristocrazia, un mito di se stessa. Scrive infatti Moretti, paragonato a un cavaliere, un borghese appare anonimo, indefinibile, simile a qualunque altro borghese, e questo rende appunto il borghese in difficoltà, soprattutto oggi, paradossalmente proprio a causa del capitalismo che ha contribuito a rafforzare e di cui è stata l'espressione più orgogliosa. Infatti, scrive Moretti, mentre il capitalismo portava un relativo benessere nelle vite di grandi masse operaie del mondo occidentale, le merci diventarono il nuovo principio legittimante. Il consenso si costruiva sulle cose, non sugli uomini, e meno ancora sui principi. Era l'alba dei nostri tempi, il trionfo del capitalismo e la morte della cultura borghese. Uno dei punti di svolta della crisi della borghesia occidentale fu certamente il 68, di cui troviamo la cronaca negli scritti di Oriana Fallaci, che vengono raccolti con questo titolo: 1968, dal Vietnam al Messico, diario di un anno cruciale, da Rizzoli, 458 pagine, 20 euro. Il 68 fu certamente un anno terribile, con l'uccisione di Martin Luther King, quella di Robert Kennedy, la prosecuzione della guerra del Vietnam, l'invasione di Praga e appunto la contestazione, nonché gli incidenti di piazza di Città del Messico, dove la stessa giornalista venne ferita. La contestazione non appassionò particolarmente la Fallaci, che definisce il movimento studentesco vandalismi di studenti borghesi che osano invocare Che Guevara e poi vivono in case con l'aria condizionata. Il mito di quei giovanotti, appunto il Che Guevara, naturalmente sarà ricordato in questi giorni. Domani infatti ricorre il cinquantenario della morte del rivoluzionario. E agli inconsolabili segnalo i libri che possono leggere sul Che, quello di Paco Ignacio Il Taibo, che è uno dei più importanti scrittori messicani, Senza perdere la tenerezza, vita e morte di Ernesto Che Guevara, pubblicato dal Saggiatore, 1114 pagine, 26 euro, oppure Io e il Che, l'utopia di un mondo possibile, con 25 testimonianze raccolte da Gianni Tarquini, 296 pagine, 14 euro. O ancora La vera storia del Che di Jean Cormier, Hilda Guevara, che è la figlia del Che, e Alberto Granado, amico d'infanzia del Che Guevara, pubblicato da Rizzoli, 490 pagine, 15 euro. Ma tornando al 68, l'anno si concluse con l'elezione di Nixon, per il quale la Fallaci non nascose certo la sua antipatia, la sua fierissima antipatia, e che descrisse con toni che ci tornano molto familiari in questi mesi di Trump. Disse anzitutto ordine e legge, due parole bellissime quando non suonino come una minaccia, perché, accidenti, la legge è sacra e l'ordine è una necessità. Ma che razza di legge è una legge che ti nega il diritto di cambiare la legge? Che razza di ordine è un ordine che ti nega la libertà di protestare? La voce dell'America, questa America che ormai invade le nostre vite, ci piaccia o no, non è forse nata da quel diritto e da quella libertà? E poi disse basta con le critiche agli Stati Uniti. Bisogna restaurare nel mondo il rispetto per gli Stati Uniti, la guida degli Stati Uniti. E poi disse basta con queste chiacchiere sul Vietnam, se le trattative di Parigi sono a un punto morto. Quando lui viene eletto, lui dice: ad Hanoi mi avete stufato, la guerra la risolvo da me a modo mio, cioè con la forza. A questo punto sentii un brivido nella schiena. Stavo per abbandonarmi ad atroci pensieri, quando il signor Nixon si mise a parlare di noi e disse che gli americani erano stufi, sì, stufi di morire per gli europei, spendere i soldi per gli europei, lavorare per gli europei, fare l'elemosina agli europei. E i 10.000 si alzarono in piedi, applaudendo, inneggiando: bravo Dick, giusto Dick! E allora neanche quello che mi era sembrato buffo, come le Nixonette, i suonatori, i palloncini, mi parve più buffo. Mi parve, anzi, tragico. Mi parve senza speranza. E abbandonai quel comizio e lasciai la campagna elettorale di Nixon. E a questo punto... il confettino. Il 68 fu anche, o voleva essere, l'anno della fantasia al potere. Allora vi segnalo un libro di Valentina Edizioni di Gemma Merino, La mucca che voleva imparare a volare. Costa 11,90 euro e ci racconta l'avventura appunto di una mucca che vuole rompere gli schemi. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione e Andrea Roccabelli regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica: un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.